Allora, io sono di parola e il libro che ho promesso lo mantengo. Vediamo se anche la tecnologia è di parola. Oggi mi è stato minacciato qualche problema con il microfono ospiti. Non vorrei fare figuracce col nostro Alex Marcolla. Proviamo. Buongiorno Alex. Buongiorno Willy, buongiorno a tutti. Meraviglioso, sei tu che porti bene Alex. Guarda che bello, che bellezza tornare in studio con Alex, con Libreria Ulisse e con i primi consigli del 2018, che hanno pigro, posso permettermi. Sì, hai perfettamente ragione, pigro, molto pigro, insomma le novità sono arrivate tardi, l'anno scorso in questo periodo, se non ricordo male, avevamo già cominciato con una puntata o due già di libri appena usciti, però dai, così ne abbiamo approfittato per fare delle puntate tematiche che mi pare non siano andate poi così male. E ne faremo altre, assolutamente, ispirati anche da queste ultime uscite che hanno visto dei protagonisti importanti, scrittrici, scrittori. Cominceremo con uno scrittore che tra l'altro non conoscevo, Magyaro dall'Ungheria, Gli atti di mia madre, Neri Pozza, secondo me papabile, permettetemi il termine, premio Pellegrino, quindi non vorrei già cominciare a spendere delle parole dettate dal mio entusiasmo. Per me il libro è un capolavoro assoluto, è un libro bellissimo, il libro che è in palio per questa puntata, 333-180-9494. La domanda è molto semplice, ogni tanto la ripeto, il piatto tipico ungherese, facile, no? Insomma, io ho una grande, lo sai Alec qual è? È quello tutto in umido con la carne, ecco, l'abbiamo già detto, quindi guarda, potete rispondere perché Alex ha già suggerito, se siete attenti è perfetto. Abbiamo fatto già un inizio sfolgorante con Andras Forgac o Forgac? E non ho ancora chiarito bene la questione. Diciamo che io lo sto chiamando Forgac, okay, in attesa di... Perché sei austriaco. Per la mia metà austriaca lo chiamo Forgac. Tra l'altro, se dovesse vincere il premio Pellegrino, da quello che ho letto mi sembra il tipo di personaggio che verrebbe a farsi un piatto di tagliatelle. Io sto cercando questi artisti che hanno anche l'aspetto da buona tavola, buona forchetta. Neri Pozza, un libro assolutamente in linea con motivo di ricerca, originalità, l'aspetto di narrazione, l'aspetto fantasioso se vogliamo, pur restando legato a una storia vera, e anche la bella letteratura tipica di Neri Pozza. Entriamo nel dettaglio, Alex. Sì, hai perfettamente ragione, cioè tutti questi elementi sono gli elementi di questo libro, e poi tra l'altro sono anche gli elementi di dei libri che Neri Pozza sceglie per la collana Bloom, perché è una collana veramente molto particolare, cioè di ricerca di qualità, ma al tempo stesso di capacità di arrivare al lettore. In questo caso Andras Forgac, autore ungherese mai tradotto in italiano, in realtà lui è uno sceneggiatore, sceneggiatore per il cinema e prevalentemente un drammaturgo, anche se ha scritto altri testi narrativi. È nato nel 1952 in Ungheria, e questo libro è un po' è particolare, perché il primo tradotto suo, perché nasce da una storia familiare, cioè la storia familiare dell'autore. Lui un paio di anni fa, lui legatissimo ai genitori, in particolare alla madre, donna, tra l'altro famiglia ebrea, di origine ebrea, esattamente, anche se poi il cognome è un cognome che il padre ha assunto per negare queste sue origini ebree, e poi un po' nel libro, un po' anche nelle interviste che ho letto dell'autore si capisce meglio il perché. E quindi lui che cresce in questa famiglia con questo rapporto molto forte con la madre, donna affascinante, colta, bella, che educa i figli alla libertà, alla cultura, all'apertura verso il mondo, e donna che tra l'altro comunista, lei dichiarata, anche il padre dell'autore lo era, e tutto sembra perfetto. Questa donna muore alla metà degli anni Ottanta. Tra l'altro, da ricordare che il nonno dell'autore è stato anche un importante autore e scrittore israeliano del Novecento, quindi c'era anche questo legame con la letteratura proprio per via di questo nonno. E questa donna muore alla metà degli anni Ottanta. Forgak ne soffre moltissimo perché appunto il legame era autentico e forte. 30 anni dopo, aperti gli archivi dell'ex che contenevano tutte le varie informazioni, i vari rapporti dell'ex servizio segreto comunista ungherese, riceve una telefonata. Esatto. E gli si comunica che la madre era una spia del governo comunista, e non solo, ma che aveva spiato amici, ma anche gli stessi familiari e gli stessi figli. E questa cosa crea in lui una profonda angoscia, una profonda frattura tra l'immagine e il rapporto che ha avuto con questa donna e fino alla sua morte, e l'immagine che ne esce da questi rapporti. E il libro racconta esattamente questo. Tra l'altro, non è una cosa che è capitata solo a Forgak, perché giustamente in un'intervista che lui ha rilasciato qualche settimana fa, perché è stato ospite qui in Italia in radio, tra l'altro, sì, a Fahrenheit. E lui dice appunto che anche ricorda che anche il padre di Péter Esterházy, un altro grandissimo scrittore ungherese morto un paio di anni fa, era stato una spia del governo comunista. E a me è venuto in mente anche un'altra cosa ieri, mentre stavo un attimo riguardando il libro, che uno dei più grandi scrittori tedeschi dell'est, dell'ex Germania Est, ovvero Uwe Jonsson, morì nell'84 a 50 anni, distrutto dall'alcol, e questo alcolismo era stato in un certo senso indotto dalla scoperta che la moglie lo spiava, amatissima moglie, lo spiava per conto della Stasi. Quindi era una cosa assolutamente diffusa. Sì, anche perché un cittadino su cinque faceva parte dei servizi segreti, esatto, soprattutto in Germania Est. Io ovviamente con le giuste misure e con un aspetto critico, però da queste immagini, cospirazioni, iconografie, silenzi, ma pieni di contenuto così, ne sono assolutamente affascinato. Di tutto quello che succedeva al di là della cortina di ferro, io ne sono incredibilmente affascinato. Qua è raccontato con una precisione minuziosa. Pensate a questo giovane uomo che riceve una telefonata: guardate, abbiamo aperto gli archivi, volevamo renderle noto che sua mamma era a servizio dal governo comunista ungherese per quanto riguarda appunto la sicurezza di Stato. Gli atti di mia madre è il titolo. La particolarità magica, secondo me, della scrittura, soprattutto nella prima parte, è che questi dialoghi che la madre ha, tra virgolette, con dei superiori dei servizi, vengono tradotti in maniera originale a pie pagina con gli atti veri, sì, e sì, propri, sì, sì. È stato comunicato alla compagna Popai di dover recarsi in Israele per monitorare tutto quello che è il movimento sionista, perché esatto, lei viene incaricata di questo. Lei chiede più tempo per restare in Israele, anche perché è un motivo di vicinanza con la sua famiglia. I tempi invece si restringono, gli chiedono e gli propongono più denaro, la vedono per il suo compleanno, gli regalano questa tovaglia decorata, sono molto gentili con lei per quanto riguarda una narrazione letteraria, e sotto la traduzione invece da cospirazione sovietica, proprio con tutti i dettagli, gli sguardi, il silenzio, come comportarsi quando si avvicina uno sconosciuto. Le ricordano che suo figlio ha degli amici che insomma non sono proprio allineati, o almeno così pensano, per cui bisognerebbe dare un'occhiata, anche perché lei lamenta dicendo: non mi incaricate mai di compiti importanti, tra virgolette, sono sempre più una galoppina spina e dire che ho sempre svolto il mio lavoro da quando mio marito si è ammalato in maniera precisa. E appunto il compito sarà guardare all'interno della sua famiglia. Gli atti di mia madre, Neri Pozza, Andras Forgak, per me un libro meraviglioso. 333-180-9494, qual è il piatto, se vogliamo, nazionale ungherese, visto che stiamo parlando anche di premio Pellegrino? Sarà mia cura regalare questo libro, perché insomma è giusto così, Alex, no? Sì, perché assolutamente. Secondo me bisogna anche diffondere in questo modo la voglia di leggere, questa è sicuramente una grande lettura. Io posso leggere una cosa che mi ha colpito per quanto riguarda la famiglia di lei. La famiglia di lei, che a sua volta, come abbiamo visto, viene dai kibbutz israeliani, lei è di origine ebrea, quindi c'era un'idea assolutamente di condivisione e progressista, e poi le cose sono cambiate, leggete Siger se volete saperne di più, ma di questo ne abbiamo già parlato nello speciale letteratura ebraica. E per quanto riguarda invece il presente e la natura e le origini di questa donna protagonista, a pagina 24 si ricorda che già da bambina aveva appreso dalla madre che non si potevano idolatrare gli oggetti. La madre, eppure nemmeno loro erano ricchi, invitava regolarmente i bambini di strada, preparava loro latte e cacao con la panna montata e più di una volta, a seconda del capriccio del momento, regalava a qualcuno di loro le scarpe o i vestiti delle figlie. Se vedeva che queste storcevano il naso, teneva una conferenza sul comunismo che presto si sarebbe levato su tutta l'umanità, cosa di cui loro giustamente dovevano dare il buon esempio. Grande Pierre, direi che il goulash è il piatto tipico ungherese che potrebbe essere anche consumato in caso di vittoria al premio Pellegrino. Ci sta, non è certamente una sorpresa un goulash al Pellegrino, è assolutamente. Buona giornata e buona lettura, Pierre. Buona lettura a te. Sarai richiamato dopo il format del Voltiamo Pagina per accordarci come fare in questo caso lo scambio del prigioniero, no? Visto che siamo oltre la cortina di ferro. Complimenti, ti puoi leggere un libro meraviglioso e siamo molto felici di poterti omaggiare di questo Atti di mia madre di Andreas Forgak, Neri Pozza, collana Blum. E se poi rispondevi che era un piatto di tagliatelle, noi ti regalavamo lo stesso, non c'è problema, perché siamo assolutamente dei buon gustai. Alex, se vogliamo aggiungere qualcosa su questo libro, se no andiamo oltre. Brevemente, una cosa l'aggiungo, perché tu prima appunto ricordavi che lei, la mamma di Forgak, veniva mandata diciamo in missione, sì, missione in Israele per spiare appunto il movimento sionista, eccetera. Diciamo che lei approfittava anche di questo per appunto tornare dalla famiglia, e c'è questa sorta di frattura anche nella madre e tra l'altro nel padre, che anche lui era una spia e che è morto in manicomio. È vero, depressione gravissima. Esatto. E il fatto che loro mettevano la causa comunista prima di tutto, al punto tale da negare le proprie origini ebraiche, tant'è che il padre di Forgak cambia cognome, però in realtà si sentivano profondamente radicati nella propria cultura che era ebraica. Certo, ma loro in questo libro, tra l'altro, Andras di, o meglio lo chiamo in maniera confidenziale, dirà: io perdono assolutamente sì. tutto a mia madre, ma assolutamente sì. tutto, perché veramente c'è una dottrina in cui si pensa di cambiare il mondo, assolutamente sì. allineati, progressisti, e questa è un'altra cosa molto affascinante. E soprattutto questo libro, con queste fratture e con questi dilemmi interiori gravissimi in un momento di crisi politica come questo, ovviamente con delle dimensioni più ridotte, però lo stiamo vivendo anche noi. Sì, sì, assolutamente. Lo stiamo vivendo anche noi. No, leggetelo veramente, Gli Atti di mia madre. No, dire adesso andiamo tutti al Pellegrino con Forgak mi sembra un po' eccessivo, però ci siamo. Ecco, proseguiamo con chi? Allora, il prossimo libro è Invito a nozze, Carson McCullers, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero. E dunque Carson McCullers è stata una delle più straordinarie scrittrici americane del XX secolo. Appartiene a quella fucina di talenti che sono nati e cresciuti nel sud degli Stati Uniti, sud degli Stati Uniti, che ha dato i Faulkner, che ha dato le Flannery O'Connor, che ha dato i Truman Capote, di cui avevamo presentato un libro qualche puntata fa. E Carson McCullers, donna fragile, nata nel 1917, morta a soli 50 anni, ha scritto poco e in questo caso pubblica un romanzo che è una sorta di racconto di formazione ambientato nel sud degli Stati Uniti. La protagonista è una ragazzina di 12 anni che si sente prigioniera di questo piccolo, di questa cittadina del sud, con un clima, parlo di clima sociale ancora prima che di clima atmosferico, clima sociale asfissiante, e desidera vedere il mondo. L'occasione sarà il matrimonio del fratello più grande, che si svolgerà di lì a poco in una città più grande, sempre comunque legata al mondo del sud, e nel sognare questo matrimonio, o meglio questo matrimonio diventa l'occasione per sognare una vita altra. Le caratteristiche della narrativa della McCullers, come poi di molti scrittori degli scrittori ad esempio che ho citato prima, sono il fatto che protagonisti delle loro opere sono quasi sempre quelli che anche qui nella quarta di copertina vengono chiamati freak, cioè gli emarginati, drop out. Esatto. al punto tale che di Carson McCullers nel nostro paese si innamorò Pierpaolo Pasolini, che recensì i suoi libri, e quando la McCullers venne a Roma nella metà, alla seconda metà degli anni 50, i due si conobbero e sarebbero poi diventati grandi amici. Sì, lei tra l'altro di salute cagionevole, scompare solo a 50 anni, prende un terribile, diciamo così, stop per colpa di un ictus che la paralizzerà, tra un'emiparesi, parte del suo corpo. Lei si sposa giovane con questo personaggio strano, fra l'altro, divorziano per 5 anni, si rimettono assieme. Facciamo un passo ulteriore indietro, perché è una vita leggendaria e letteraria la sua, se vogliamo. Sin da bambina affascinatissima dai grandi classici della letteratura, lei decide da bambina di mettere in scena delle piccole pièce teatrali dove i protagonisti sono i suoi parenti. Tu pensi, io giocavo a palla avvelenata, Massimo, lei invece no, decide di fare la regista teatrale, e gli spettacoli erano assolutamente gradevoli, quindi un talento incredibile. Il libro non so se è precedente o dopo, perché ne è stato tratto ovviamente anche un film, La donna di Jill, è un libro suo? Donna di Jill è il libro dell'autrice di cui parleremo. Hai ragione, ho fatto confusione con le due autrici, però questo che sto raccontando fino adesso, a parte il libro, è tutto vero, è che a volte, diciamo, quando poi le metti insieme ti capita di fare delle intersezioni sempre di grande letteratura. Ciò non toglie che la vita della McCullers resta sempre molto letterario. Assolutamente. Tra l'altro, poi dai suoi pochi libri, compreso questo Invito a nozze, sono stati tratti dei film. Esatto. Come ti dicevo prima nella pausa, la storia di Frankie, la ragazzina di 12 anni di questo romanzo, e il mondo che la circonda mi ha ricordato moltissimo i primi romanzi di Capote. Noi avevamo presentato L'arpa d'erba in una puntata di qualche tempo fa, e tra l'altro mi ha ricordato anche Il buio oltre la siepe di Harper Lee, perché anche Harper Lee è stata una grandissima scrittrice americana, però anche lei proveniva da quelle terre. Non a caso un personaggio del buio oltre la siepe è ispirato a Capote, che erano amici di infanzia. E a proposito di Freak, se mi permetti, Willy, io leggerei un pezzo del libro che esemplifica proprio questo discorso del Freak, insomma. Quell'agosto compiva 12 anni e 10 mesi, era alta 1,67 m e calzava scarpe numero 38. L'anno prima era cresciuta di 10 centimetri, o almeno così riteneva. Gli odiosi bambini del vicinato avevano già cominciato a gridarle: «Fa freddo lassù?». I commenti dei grandi poi le davano i brividi. Per raggiungere il massimo della sua statura, a 18 anni aveva davanti a sé ben 5 anni e 2 mesi di sviluppo. Dunque, se la matematica non era un'opinione, a meno che non trovasse il modo di arrestare la propria crescita, avrebbe raggiunto l'altezza di oltre 2,5 metri. E una donna alta oltre 2,5 metri è di certo un fenomeno da baraccone. There's something to say that I want you to hear. It's hard when you're far, I forget when you're near. I'd rather be 2 inches from your face than floating about in a different state. I don't wanna bother you, but there's something to say that I want you to hear. It might be some time before we reappear. I'll see you when I see you, sure. But but it's hard not to want just a little bit more. No, io della gaffa che ho fatto in precedenza con la scrittrice che presenteremo tra poco, saluto Andrea Lolli, se all'ascolto dei 103.1, il nostro confratello di ritrovi letterari e gastronomici, perché l'ultima volta che siamo andati a correre assieme mi vantavo del fatto che io leggo contemporaneamente con una certa metodicità due libri in una volta, no? E infatti lui diceva: devo provare anch'io. Assolutamente. Beh, Andrea, non provarci, perché come hai visto si confondono poi le biografie degli scrittori, causando una grande confusione che non è proprio radiofonica, però a volte l'entusiasmo e la passione portano anche a questi piccoli inciampi. L'ultimo libro che abbiamo presentato prima dello stacco pubblicitario, edizione, casa editrice, titolo, insomma, chiudiamo anche questo capitolo tra virgolette di grande letteratura. Allora, è autrice Carson McCullers, Invito a nozze, e in Audi con l'Ala Stile Libero. E noi torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità, restate con noi a fare colazione, una colazione letteraria con Alex Marcolla di Libreria Ulisse e William Piana al Breakfast Club. There's something to say that I want you to know. Hello and goodbye and goodbye and hello. Sometimes it's like I made you up. One more word and then I'll shut up. Facendo colazione con il Voltiamo Pagina e Libre Colazione come ogni mercoledì. Salutiamo Pier, che ha vinto il libro Gli Atti di Mia Madre di Andrea Sforga, che edito Naneri Pozza. Poi la presentazione prosegue con Carson McCullers, Invito a nozze, e in Audi. Proseguiamo ulteriormente con Alex Marcolla. Prima mi permetto di salutare Laura, che ci sta ascoltando. Oh, guarda, mi hai rubato le parole di bocca. Hai visto? Lo stavo per dire. Hai visto? Ok, perfetto. Che speaker maleducato che sono. No. No, ci leggiamo nel pensiero, okay. Praticamente. La chitarra chitarra texana di Melvin Sparks fa da colonna sonora Carson McCullers con Invito a nozze. Ma torniamo in Europa, perché volevo tra l'altro approfondire anche l'eterogeneità di questa presentazione di questi primi quattro titoli per il 2018 portati da Alex, che vi è la ricerca di una letteratura che insomma ultimamente nel cuor mi sta. Onore al merito per chi mi segue in questo caso in maniera letteraria. Carson McCullers e l'autrice che presenteremo adesso sono scrittrici della prima parte del Novecento. Sì, esattamente. Tra l'altro presentiamo quattro libri. Tu ovviamente giustamente hai detto il primo è di uno scrittore, però pensandoci bene sono quattro le donne protagoniste, perché Gli atti di mia madre è appunto la madre di Forga, che, e poi abbiamo quattro donne, cioè dai 12 anni in su, insomma. L'autrice che presentiamo adesso è, perdonate la mia pronuncia, se c'è qualcuno che sa il francese, tipo il nostro amico pellegrino Andrea, che mi perdoni, è la Madeleine Bourdoucet, e il libro è Marie aspetta Marie, edito da Adelphi. Allora, la Madeleine Bourdoucet è stata una scrittrice nata agli inizi del Novecento, di lingua francese, ma in realtà come per esempio Georges Simenon era belga. Tant'è che il suo libro, quello a cui facevi riferimento tu prima, la donna di Gilles, che ti devo ordinare assolutamente, è ambientato a Liege, quindi in Belgio. In questo caso Maria aspetta Maria è ambientato a Parigi, e il libro è uscito negli anni della Seconda Guerra Mondiale. La donna di Gilles era uscito alla fine degli anni 30, quindi si parla sempre di quel periodo lì. Perché lo dico? Perché poi la Bourdoucet non che smise di scrivere, però scrisse sempre di meno, e gli anni della guerra la videro protagonista contro l'occupazione nazista lei della Francia. Lei faceva parte della resistenza in maniera attiva, assolutamente. Non con dei post su Facebook. No, assolutamente. No, era su in montagna con uno schioppo in spalla. Esattamente. E volevo anche ricordare che benché nota a pochi persino in Francia, perché in realtà poi c'è stata una riscoperta dopo il film tratto dalla donna di Gilles, lei tra l'altro non è morta, è morta una ventina d'anni fa, insomma non di più, però era nota a pochi che l'amavano e la rispettavano e sapevano del suo talento, e una delle persone che la conosceva, tra l'altro la conosceva anche personalmente, fu Simone de Beauvoir, che la citò, fu una delle due scrittrici che lei citò nel Secondo Sesso. E tra l'altro le due si sono conosciute molto bene, infatti, assolutamente molto bene. Leggendo L'educazione di una ragazza. Alle memorie di una ragazza per bene. Che è quello che leggo appunto in Intersezione. Non meravigliarsi ogni tanto cito delle. No, non credo di sbagliarmi, perché Maria aspetta Marie, scusate se uso e abuso di questo termine, ma tra i quattro probabilmente è il più willato, Okay. Perché è una cosa bella, vai, scusa, ti ho interrotto. No, Alex. Allora, lei ha indagato sia in questo libro, indaga in questo libro, ma l'ha fatto anche nel libro precedente, le passioni di una donna raccontate con una lingua apparentemente semplice e con una dolcezza apparente, perché in realtà sono dei libri piuttosto duri, che spogliano la passione di qualsiasi forma di sentimentalismo e di qualsiasi forma di banale sentimentalismo. Certo. In questo caso abbiamo anche qui abbiamo Marie, che è questa signora francese, questa donna francese che è più o meno felicemente sposata, un po' più che meno, perché ma sembra che funzioni, esatto, comunque, perché e questa è la cosa curiosa dei due libri. Mai dire mai. Cito anche l'altro libro, perché Marie ritorna un po' come la protagonista dell'altro libro, e sono delle donne innamorate dei propri mariti, però In questo caso, in Marie aspetta Marie, durante una vacanza nel sud della Francia, lei incrocia lo sguardo di un ragazzo di 20 anni. Beh, a quanto pare bellissimo. Bellissimo, perché poi lei lo descrive in un modo molto, molto concreto, e lì il suo, diciamo così, matrimonio comincia a vacillare, perché la passione per questo ragazzo prende il sopravvento. Sì, non riesce a toglierselo dalla testa. Non riesce a toglierselo dalla testa. Schnitzler, doppio sogno. Esattamente. Però visto esattamente. In maniera... visto in un... esatto, in maniera stravolta, positivamente. Il momento dell'incontro è qualcosa di veramente appassionante, tanto più che, come diceva giustamente Alex, in vacanza questa coppia insieme da 6 anni. Felicemente, tra l'altro, no? E quindi si ride, si scherza, si hanno momenti di passione e momenti di quotidianità, e domande che costantemente ritornano. La felicità, che cos'è la felicità? Beh, che tu lo voglia o no, è ora di fare il bagno, grida Jean allontanandosi. Marie si alza di scatto e guarda verso il mare, cerca Jean con occhi ansiosi. È un cattivo nuotatore e ha sempre la mania di andare al largo. Finalmente lo vede, il suo sguardo non lo abbandona un attimo, segue tutti i suoi gesti, adesso si immerge sott'acqua, in lei qualcosa si tende, resta in sospeso. La testa di Jean ricompare un po' più lontano, luccicante d'acqua, tra le onde, e Marie respira di nuovo. Jean si sta tornando e ora l'acqua gli arriva alla cintola, fa un cenno e Marie, con le mani sui fianchi, guarda gli altri bagnanti. Maria approfitta di questa tregua, si siede di nuovo e volta il capo a sinistra. Vede qualcuno sedersi su uno scoglio, lo vede di schiena. Le sembra molto giovane, nascosto a metà da altri scogli, si sta preparando a fare il bagno. Ha i capelli neri, un po' mossi, le spalle sono magre, ma sembrano solide e nervose. Adesso cammina sugli scogli a testa china, salta, risale un po' sulla sabbia in direzione di Marie. Alza il capo e lo sguardo di Marie incontra quegli occhi. È la prima a battere le palpebre e a voltare la testa. Dov'è Jean? È fra gli altri bagnanti. E poi di nuovo Marie guarda verso sinistra e il giovane è disteso sulla sabbia, pieno di sole e proprio come lo immaginava. Spalle sottili e nervose, molto abbronzate, gambe lunghe e muscolose, ancora più scure di quelle di Marie. Lentamente il suo sguardo sale lungo tutto quel corpo, ne segue tutte le sinuosità, scruta quel giovane corpo. Lui alza le braccia, incrocia i pollici sul viso per proteggere gli occhi dal sole. Com'è giovane, quali entusiasmi, quali attese, quali speranze pullano sotto quelle palpebre chiuse. Thank you. salutare una nostra redattrice, una voce importantissima per la nostra radio, Valeria Sacco, in mostra il giovedì e Jazz Live al venerdì. Oggi ferma per un pit stop dall'odontoiatra, dal dentista, ed è un intervento abbastanza importante, il famoso giudizio, no? Perché dobbiamo toglierlo, che abbiamo tanto bisogno di giudizio? Perché ci fa male il dente del giudizio tanto da doverlo estirpare? Vabbè, adesso non mi addentro, però la ringrazio anche per questo bellissimo regalo. Chet Baker, She Was Too Good To Me, si è presentata venerdì con questo omaggio in redazione, questo disco e questa interpretazione di Autumn Leaves di Bill Evans, ripresa da musicisti qua in questo disco del 74, pensate, Paul Desmond al contralto che sta suonando, lo stesso Chet Baker alla tromba, Bob James alle tastiere, Ron Carter al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria, tutto questo con la conduzione dell'orchestra di Don Sebesky, un discone. I nostri libri, al voltiamo pagina, la prima presentazione per il 2018 con Alex di libreria Ulisse, per la playlist letteraria www.radiocittafugico.it, come quella musicale, o la nostra paginetta Facebook Il Breakfast Club Fugico. La dolcezza di queste note, ti cedo la parola, perché il libro, last but not least si dice, no, in questo caso, è un libro che chiaramente capisco due in una volta, poi informarsi di quello che succederà, questo io devo ancora aprirlo. Torniamo a Neri Pozza, di chi stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di un libro intitolato La Corsara, scritto da Sandra Petrignani, il sottotitolo è Ritratto di Natalia Ginzburg. È sostanzialmente la storia, cioè la parola esatta è proprio ritratto, cioè non è una semplice biografia di Natalia Ginzburg, è un tentare con 10 anni di studio fatti da Sandra Petrignani, di letture, di ricerche, di ricostruire la figura umana e intellettuale di Natalia Ginzburg, ma al tempo stesso è l'utilizzare uno stile altamente letterario per cercare di penetrare nel mistero della scrittura di questa donna in particolare. È un libro, per queste ragioni, è un libro bellissimo. Io avevo già letto degli altri libri di Sandra Petrignani, lei ha scritto almeno due dei libri che ho amato di più negli ultimi anni, che sono La scrittrice abita qui e Marguerite, che è un ritratto di Marguerite Duras, scrittrice che ho molto amato da ragazzo, che poi ho detestato in un periodo successivo, e insomma, figura a cui magari dedicheremo una puntata monografica sulla letteratura francese, perché ci sarebbe da dire molto su Marguerite Duras. Hai fatto la pace con Marguerite Duras? Ho fatto la pace, paradossalmente, grazie a Sandra Petrignani e al suo libro su Marguerite, e poi perché ho scoperto, mentre leggevo appunto il libro su Natalia Ginzburg, che Natalia Ginzburg ammirava profondamente Marguerite Duras, ma un po' per timidezza, un po' per paura, non l'ha mai voluta conoscere. Questa è una cosa che mi ha colpito molto. È una forma di rispetto e anche timore. Esatto. E penso che questo libro sia importante per tantissime ragioni. Prima di tutto perché, visto che prima citavi il fatto che la Bourdouxet è stata una partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale, bisognerebbe ricordare che il marito di Natalia Ginzburg, Leone Ginzburg, è stato ucciso dai fascisti, ed è stato un grandissimo studioso, un grandissimo intellettuale ed è stato ucciso dai fascisti, che il libro racconta senza avere la pretesa di essere un libro politico, perché non è un libro politico, è un ritratto umano, ma racconta tutto il periodo del fascismo e delle persecuzioni razziali. Ricordiamoci che sia Leone che Natalia Ginzburg, perché erano ebrei, e tant'è il cognome di Natalia Ginzburg Levi. Era Levi. E ci permette poi di essere un ritratto del nostro paese attraverso un secolo. La Ginzburg è nata nel 1916, morirà nel 1991. È un ritratto della cultura del nostro paese attraverso un secolo. Il nome di Natalia Ginzburg è strettamente legato con la casa editrice Einaudi. La Ginzburg ha non solo fatto un lavoro di lettrice, consulente per la casa editrice Einaudi, ma è stata anche una grandissima traduttrice, ad esempio dal francese. Per Einaudi tradusse ad esempio Proust, il primo volume della Recherche di Proust. È il ritratto di una donna che è al tempo stesso dura e fragile, e infatti sembra quasi un personaggio da romanzo. In fin dei conti, leggendolo ti viene da pensare che ciascuno di noi ha aspetti differenti del proprio essere, e forse anche se siamo persone in carne ed ossa e viviamo nella realtà, ciascuno di noi è un personaggio da romanzo, in di un certo senso. Di questo ne sono pienamente convinto. Ognuno di noi è un libro, mi dice uno studioso. Esatto. E infatti è questo che viene fuori della Ginzburg: capace di essere ironica e capace di essere al tempo stesso dura, o perlomeno c'è una notazione che ritorna in tutto il libro e che mi ha molto colpito, soprattutto perché penso a me, penso a come mi rapporto con gli altri. La Petrignani, raccogliendo anche le testimonianze di persone che l'hanno conosciuta, sottolinea spesso che era incapace di dire bugie. È un difetto. Sì, e infatti, paradossalmente. Cioè, lei diceva la verità in faccia, sia che tu fossi un amico, e a maggior ragione un amico, uno direbbe a maggior ragione un amico, no. Perché li amici, perdi, esatto, sì, esperienza purtroppo che è capitata a tutti noi. Ma sia agli amici che alle persone che conosceva sul momento. Quindi, sì, assolutamente. Figura importante. E quindi leggiamo questo libro di Sandra Petrignani e leggiamo Natalia Ginzburg, o rileggiamo Natalia Ginzburg, perché è stata una delle più grandi scrittrici del XX secolo. It could tear you apart, the power it holds, so mighty, can bring a nation to its knees. 8:52 minuti, siamo arrivati al termine del nostro ricco voltiamo pagina. Ti consento il titolo del coming soon. Il titolo del coming soon, ecco, adesso faccio io una gaffe perché ce l'avevo in mente fino a 10 minuti fa, adesso non me lo ricordo. Però mentre io farò i saluti e presento l'Edipeo, sono convinto che ti torna in mente. Allora io presento l'Edipeo, che è le più belle stazioni del metro. Rimaniamo allora all'Ungheria, perché la più bella stazione del metro che io abbia mai visto si tratta di Budapest, almeno una delle fermate del metro di Budapest. Per quanto riguarda l'Edipeo, questo è il titolo di oggi, che fortunatamente non ci mette in imbarazzo, anzi un motivo artistico e di art déco per le più belle stazioni del metro. Domani andiamo in mostra, saremo nella meravigliosa cittadina di Gorizia, quindi nella Giulia, per conoscere l'astratto. Detto questo, avremo protagonista per l'informazione e l'approfondimento giornalistico, Alfredo Pasquali con Piero Di Domenico per Radio Zanardi. All'interno troviamo quello che è Radio Bullet e la rassegna stampa dalle 10.30 alle 12.30 con Gianluca Morozzi e Moreno Spirogi. Andremo al bel Meloro per l'era del Moroz, dopodiché avremo il GR e il Last Minute. È tornato il Coming Soon? È tornato, yeah! Il Coming Soon ce l'avevo in mente, ma esce a breve, un mese e mezzo, un nuovo per noi in Italia, ma in realtà è un libro di 30 anni fa, il libro di Annie Ernaux. Si intitola Una donna e verrà pubblicato dal suo editore storico al momento, che è l'Orma. Bene. E voltiamo pagina, ritorna mercoledì prossimo. Io vi saluto e vi do appuntamento per la prima colazione a domani. Prima però, importante, mandare un grande abbraccio ad Alex Marcolla attraverso il vetro e ringraziarlo di questa bella puntata di presentazione per le novità 2018. A tutte e a tutti una buonissima giornata e un buon ascolto sui 103.1. Grazie Alex. Grazie Willy. You.